Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Salutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, torniamo a parlare di un tema che è assolutamente importante in questi giorni, perché l'abbiamo toccato anche la settimana scorsa dicendo che l'Adico è a disposizione il sabato mattina nel mese di maggio per chi ha problemi con la compilazione del 730, e di 730 parliamo in questo caso, però perché c'è già qualcuno che ha avuto dei problemi. Sì Francesco, i problemi con 730, con dichiarazione dei redditi, ormai è una cosa sempre più frequente. Certamente ci rendiamo conto anche della difficoltà dei CAF a operare in certi periodi che sono molto ristretti rispetto a quella che è una mole di lavoro esorbitante, però problemi di dichiarazioni dei redditi sbagliate ne capitano troppo spesso e giustamente le persone quando si trovano nella condizione di ricevere una notifica dell'Agenzia delle Entrate si rivolgono all'Adico per far valere i propri diritti e capire se sono tenuti o meno loro dover pagare gli importi notificati o il CAF che ha redatto la dichiarazione dei redditi. Parliamo di un caso specifico che è successo a voi, ce lo racconti? Sì, un socio dell'Adico praticamente ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una notifica di 430 euro all'incirca, un importo 442, scusa, un importo che era calcolato 315 di sanzione ridotta e 127 per interessi. Chiaramente una sanzione ridotta se si paga subito, altrimenti l'importo sarebbe stato diverso. Però essendo che la persona si è rivolto a un CAF, ha voluto andare a fondo la questione prima di voler pagare, perché ha ritenuto ingiusto che insomma fosse lui a dover sostenere la sanzione e gli oneri della sanzione stessa. Pertanto l'ufficio del legale ha diffidato subito il CAF e il CAF, che ricordiamo a tutti gli ascoltatori, normalmente sono anche assicurati, oltre che essere responsabili degli errori che omettono nella fase di compilazione, ha restituito, qua dobbiamo dire anche in tempi record, nel giro di una decina di giorni, l'intero importo che il socio contestava, e quindi in occasione di una vicenda che si è conclusa positiva volevamo appunto ricordare la responsabilità dei CAF. Ecco, quindi qui c'era stato un errore di compilazione o uno sbaglio nello trascrivere i dati? Allora, in questo caso c'è stato proprio un errore di rigo da parte del CAF. Ricordiamo che fino a quest'anno, ecco, quando si ricevevano delle cifre anche per effetto di un errore si doveva restituire la cifra all'Agenzia delle Entrate, mentre gli interessi e le more le dovevano restituire al CAF. In questo caso però, qua essendo stato un errore così plateale, l'intera cifra è stata addebitata al CAF, però ricordiamo anche come dal prossimo anno il CAF sarà responsabile di tutto e dovrà restituire anche la cifra che eventualmente un contribuente si dovrà trovare a ricevere rispetto ad ora. Pertanto una grande responsabilità che merita molta concentrazione quando si fanno questi modelli, soprattutto come dicevamo Francesco in questa occasione, vediamo anche noi all'Adico come in poche settimane sono numerosissime le persone che ti prendono d'assalto per compilare questo modello, e quindi non è semplice poter dare questo tipo di servizio, ci vogliono grandi professionisti e molta pazienza, perché ripeto, purtroppo l'errore è in agguato. Ci può essere proprio l'errore di trascrizione, qualcosa che non ti accorgi e che malauguratamente va a modificare il tuo 730, e poi sono dolori e soldi anche che bisogna restituire o pagare come multe e sanzioni. Quindi è una bella responsabilità per chi compila il 730, ma anche se ce lo autocompiliamo, attenzione, la prudenza deve essere veramente massima, perché queste sono le cose in cui si incorre in sanzioni e interessi. Allora, ricordiamo che voi siete ancora a disposizione, quindi per non questo sabato perché c'è il ponte del primo maggio, ma gli altri sabati ci siete, no? No, noi Francesco siamo aperti tutti i sabati, anche questo. Ah. E purtroppo l'afflusso è troppo corposo per poterci permettere di rimanere chiuso. E quindi se qualcuno ha delle necessità particolari, ecco, ricordiamo anche come quest'anno è stato approvato il precompilato, che ha pensato bene a complicare un pochino di più le cose rispetto agli anni precedenti, ma insomma siamo qua a disposizione come sempre. Ecco, associazionedifesaconsumatori.it è il vostro sito. Carlo, di anche l'indirizzo, così. Allora, l'indirizzo è a Mestre, per qualsiasi cosa le persone o i contribuenti possono chiamarci al 0415349637 o scriverci all'indirizzo mail info@associazionedifesaconsumatori.it. Molto bene, grazie Carlo. Mi spiace per te che insomma avrai un ponte un po' dimezzato, un ponte tagliato a metà, quindi tra venerdì e domenica, con anche la tua presenza all'interno degli uffici insomma dell'Adico. Io ti faccio gli auguri, ci ritroviamo tra un paio di giorni per trattare un altro argomento. Sicuramente Francesco, e un ringraziamento a te e a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.